un nuovo groove. Forte. Sì, ma dipende da dove parli. Ma come parli? Perché tu devi riprenderti. Ma riprenditi. Non ce la faccio, Dragon Penaltia. Facendo adesso. Il venerdì, Drago, mi scappa il venerdì. Ma come ti scappa il venerdì? È come la pipì. Vabbè. Se ti scappa non ce la fai, sì, a tenerla, no? Allora sei tutto lì, un po' stretto così. Venerdì. Vabbè, cosa vuol dire? Ti scappa da cosa tutti. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e tra l'altro non è una cosa che contagia solo me, perché se vai a vedere sulla nostra pagina di Facebook, sì, chiedo asilo, c'è un tripudio del venerdì. C'è uno che ha scritto venardia, che sembra venaria reale. Sì, poi ci raccontano delle cose, che uno torna a casa dalla moglie e gli dice venerdia. E la moglie dice sei scemo, giustamente. Così, insomma, delle cose divertentissime. Quello è Facebook. Invece su Twitter ho scoperta questa cosa di hashtag FF, cioè Follow Friday. Hashtag nel senso di cancelletto. Sai cosa vuol dire il cancelletto? Se tu metti il cancelletto prima di una parola vuol dire che parli di quell'argomento. Ah, ok. Allora, cancelletto FF non vuol dire fast forward, ma vuol dire Follow Friday. Ed è un'usanza, vuol dire. No, è un'usanza di Twitter che celebra il venerdì e forse anche quella pratica che hai appena detto. Però non ho ancora capito. Se tu vai su Twitter di venerdì, vedrai che molti tweet hanno come inizio hashtag FF. Io non capisco niente di queste cose, ecco, però mi sembra di aver capito. Aspetta, che se tu metti hashtag FF davanti a un nome, allora inviti i tuoi follower, se non sbaglio, a seguire anche quel nome lì. Cioè, non so, è tutto troppo difficile per me. FF sta per Follow Friday. Friday. Però in italiano sarebbe follow venerdì. No, sarebbe FV. No, facciamo ma hashtag FV. Ma non puoi cambiare Twitter. In tutto il mondo si dice FF. V o V? Comunque, FF, scusa, sta anche per Forever Friday. Ma cosa dici? Per sempre Friday. Venerdì. Ma sì, e cosa vuol dire? Vuol dire che tu praticamente ti fai prendere da questo groove tutti i venerdì. È per sempre. Oggi è venerdì. Capisco. Quando non è venerdì. E ora, bambini, ricreazione! Ehi, ciao! Salve, amici! Sentite, ci sarebbe da fare un'opera buona, Sì, buona per chi? È uno di quei momenti in cui non si può girare la testa dall'altra parte, non si può far finta di niente. Vabbè, cos'è? C'è qualcuno in difficoltà? Vabbè, dai, taglia corto, bambino Alberto, se sei tu il bisognoso in difficoltà, dillo subito, così evitiamo le manfrine e tutto quanto. No, hai ragione. No, cosa? Voi non siete gettignosi! Io non ho bisogno di nulla! Stavolta fidatevi, per favore, dai. Sì, la persona in difficoltà è una cosa vera, È una maestra d'asilo, no? Di qui? Anzi, cioè una sex maestra d'asilo. Vabbè, allora no. C'è una bella differenza, no? Sì, sex maestra qui non c'è, però non è interessante, c'è. Vabbè, dai, almeno è interessante. Ogni tanto c'è una sex maestra, dai. Che si chiama Michela. Ha preso una multa. Perché dicono che nel suo asilo, perché lei è un piccolo asilo, ci fa stare troppi bambini, no? È un asilo privato. Mi sembra giusto. Vabbè, ci sarà una legge che regola gli asili privati, non una puoi legge tenere. Ci sarà. Una ma legge, no, ma quale legge? 50 persone non puoi tenerle in un appartamento, poveri bambini. Ma dipende, dipende dai bambini. Vabbè, perché? Sentite, dai, il vero motivo? Sì. È solo perché sta povera maestra è sexy, no? E già, allora, un comitato di mamme bigotte già tempo fa aveva protestato perché la maestra aveva messo su Facebook, sul suo profilo personale, delle foto così senza vestiti, no? E vabbè, noi cosa possiamo fare oltre che andare persona, a vedere la pagina? Niente, no, è una specie di comitato, voi dovete solo appoggiare l'iniziativa, no? Appoggiare allora, l'iniziativa. Questa qui, ascolta, è l'idea che è venuta in mente a me e a mio padre, no? Ah, c'è anche tuo padre in questa storia, cosa c'entra tuo padre? E come cosa c'entra? Questo mio altruismo? L'ho ereditato da lui, no? Certo. Sarà anche un pirla. È progressista, però. Un'anima, no? Sì. Quindi si è preso a cuore il caso della maestra sexy. Immagino che sia proprio... Chissà perché, vuol dire, se l'è preso a cuore, chissà perché. A lui piacciono le maestre sexy. Ti ricordi anche quella di, cos'era, Serravalle? Comunque. Dai, dimmi. Visto che lì al suo paese non le permettono di svolgere tranquillamente il suo lavoro, no? Di che maestra sarebbe quello di maestra d'asilo, no? Sì. L'idea sarebbe quella di portarla al nostro asilo, no? Ah, e precisamente nella mia classe, no? Per diventare la mia maestra. Perché proprio nella tua classe è tuo padre questo che vuole. No, sei tu. Ma avete visto le foto su Facebook, no? No, io non l'ho ancora viste. No, fammi vedere. Allora, dai un'occhiata qua. Passa lo smartphone. Vabbè, però. Ci sono motivi più che buoni. Guarda, bravo. questa qui non è. Guarda. Via col dito. No, vabbè, si metti davanti il dito. Vabbè, però. Allora, cosa c'è? Stiamo guardando i motivi. Bambino Alberto. Vedere se accettarlo o no. Ma poi, dire. Tra l'altro, dovrebbe essere un'opera buona. Scusa, cosa c'entrano le foto provocanti sull'opera buona? Sì, adesso di colpo ti tiri indietro. L'opera buona, insomma. Sì, forse sì. Boh, provocanti adesso. Beh. Non esageriamo. Se una maestra, oltre che essere brava e bella, non possiamo mica fargli una colpa, vabbè, no? Bambino questo dice mio padre. E appunto tuo padre lo dice, tu appunto che ne cosa? Sai? No, poi mio padre mi ha fatto anche un discorso serio, no? Da papà a figlio, sul fatto che d'ora in poi lui vorrebbe occuparsi più di me, no? Seguimi nei progressi che faccio all'asilo. E quindi per questo avere più colloqui con la mia maestra, ma no? Vabbè, sì. Lui dice, ha bisogno di 2 sere alla settimana, ma no? Come di colloqui. Sera, colloqui alla sera. Pomeriggio, sì, ma c'è un motivo anche qui, Qual è? Mio padre dice che fuori dal contesto dell'asilo, il dialogo con la maestra è molto più efficace, no? Capito? Fuori dal contesto. Senza limiti, senza restrizione mentale. In che contesto, quindi? E che comunque... Fuori dal contesto dell'asilo, quindi in che contesto? E qui volevo, perché mio padre, oltretutto, fa anche un sacrificio. Sì, che il sacrificio di incontrare fuori contesto, in un contesto tutto da vedere, la maestra no, sexy. No, no, un sacrificio economico, Ma perché economico? In che senso? Ha dovuto fare un abbonamento annuale al Blue Motel, no? Due Motel. Sere alla settimana per 10 mesi, no? Ho capito, fate voi il conto. Ma il Blue Motel mi suona un po' equivoco. Cosa stai dicendo, bambino Alberto? C'è anche il Mirage Hotel. Se vabbè, quello il Mirage Hotel era tutto pieno, non c'era più posto. Vabbè. E quindi? E poi lì c'è la vasca di massaggio, Sì, un vasca un po' così da evitare, forse. No, no, ma no, perché no, perché ci vanno tutti lì nelle vasche, no? È un albergo a ore, nel senso che ogni ora. Tu non dovresti nemmeno sapere bene che cos'è, bambino Alberto. Due ore alla settimana, il martedì e giovedì, no? Tra le 10 e mezzanotte mio padre c'è il colloquio. Con la maestra. Al Blue Motel. Tua madre in tutto questo dove la mettiamo? E beh, mia madre il martedì e giovedì c'ha i colloqui col maestro di judo di mio fratello, no? È al Motel J. Ma come? Alla suite del Motel J. Ma cos'è? La suite. È al motel sulla Vigevanese, no? Poi a Cassanese. Vabbè. Poi dici ho sbagliato, torni indietro e vai sulla Vigevanese. E poi abbiate grasso. E poi quando lei dice, qui non lo trova mai. E poi alla fine beh, andiamo in un parcheggio, poi vanno in un parcheggio dove ci sono tutti i colloqui dei genitori con i maestri. Ma in parcheggio. Il parcheggio si fanno i fari, no? Ma bambino Alberto. Perché di sera? Vabbè, ma. No. No, senti, la campanella, andiamo. No, veramente. No, sì, no? Va bene, bambino Alberto. Ciao, dai. Ciao, grazie. Fari nel parcheggio. Capito, ma. Vabbè, i colloqui. Mio padre. Non è male. Alla fine, allora. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Le parole sono importanti, diceva un isterico Nanni Moretti tanti anni fa. Ma non aveva solo anche lui, ragione, lo diceva, che lo dice, comunque. Che lo diceva. Non lo so, però vabbè. Anche degli altri, secondo me. Le parole sono importanti e la parola più importante per ognuno di noi è il nome di battesimo. Perché il nome di battesimo, non lo scegliamo noi e ci rimane attaccato per tutta la vita. Beh, non è detto, scusa, per esempio Pannella, che si chiama Giacinto, tutti lo chiamano Marco. Sì, quindi... però sulla scheda elettorale, se guardi, c'è scritto Pannella Giacinto detto Marco, quindi alla fine lui sarà sempre Giacinto. Come Facchetti. Bravo, capo, hai detto una cosa di calcio e l'hai pure detta giusta, ma solo perché Facchetti, diciamo, è un giocatore dei tuoi tempi, in qualche maniera. Sì, perché so che adesso Facchetti non gioca più, no, al suo posto c'è Scirea in nazionale. No, no, veramente, questo succedeva intorno al 1979. Adesso come adesso sia Facchetti sia Scirea purtroppo è morto. E quindi gioca Baresi. No, ma Tito, lasciamo stare Baresi. Non mi dire che anche Baresi è morto. Ma no, ma non dirlo nemmeno per scherzo. Baresi, allora chi è no? Che gioca libero nell'Italia? Non c'è più il libero, Kappa. Ma come non c'è più il libero? È una storia lunga, Kappa. Non abbiamo tempo perché dobbiamo parlare di un bambino chiamato Venerdì. Ma non c'è più il libero, cioè giocano in 10. Sì, no, giocano in 11, ma non c'è più il libero. Sono due centrali. Lascia perdere. Allora, parliamo del bambino chiamato Venerdì. Ti spiego meglio. Nel 2006, una neomamma genovese si era messa in testa di chiamare il suo bambino Venerdì. In onore del Venerdì. O in onore di Robinson Crusoe, non si sa. Venerdia sì, è un bel nome. Però è vietato dalla legge. Ma come? Sì, è nella lista nera dei nomi ridicoli, perché c'è una lista, i giudici vedono un nome ridicolo, non puoi chiamare tuo figlio. Ma non c'è niente di ridicolo a chiamarsi Venerdì. Vabbè, vaglielo a dire ai magistrati che hanno imposto alla mamma di chiamarlo Gregorio Magno. Ma il figlio... come? La mamma si rifiutava di dargli un altro nome, così i giudici hanno seguito la normativa vigente che dice che in casi come questi il nome del bambino deve essere quello del santo del giorno. Il bambino è nato il 3 settembre e il 3 settembre è San Gregorio Magno. E quindi il bambino si chiama Gregorio? No, Gregorio Magno. Ma Gregorio, ma dai, ma è più ridicolo di venerdì. Pensa, se fosse nato il giorno dopo avrebbe dovuto chiamarsi Rosalia, visto che un maschio gli è ancora andata bene, no? Beh, si sarebbe chiamato Rosolio. Venerdì a Follow Friday. Follow Friday. Seguiteci di venerdì. Fa schifo, vedi? Follow Friday. E com'è? Follow venerdì. Follow venerdì. Non lo sai dire, no? Non lo so, beh, dillo tu. Salutiamo e ringraziamo Laura Faggin, Carmelo Lauricella, Alberto Caserini e tutti quanti quelli che hanno aiutato a fare Chiedo Asilo. Ci risentiamo la prossima settimana. Follow Monday, Tuesday, Wednesday, Happy Days, tutti quanti.